I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Lo so che bisogna parlare della crisi di governo e del dopo referendum, ma avete già sentito tutto. Proviamo a guardare un fatto apparentemente lontano, che però diventa un capitolo di storia. Ieri il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha annunciato che andrà a Pearl Harbor il 27 dicembre e visiterà, accompagnato dal presidente Barack Obama, proprio la base della Marina Militare Americana, le Hawaii, che nel lontano 7 dicembre del 1941 fu attaccata a sorpresa da 350 bombardieri giapponesi. Ci furono 2.403 morti e la distruzione di quasi tutta la flotta americana, e ciò significò l'ingresso degli USA nella Seconda Guerra Mondiale. Abe ha spiegato che con la sua visita intende consolare le anime delle vittime, mandare un messaggio sulla necessità che gli orrori della guerra non si ripetano più e sottolineare il valore della riconciliazione tra Giappone e Stati Uniti. Parole simili a quelle usate dallo stesso Obama durante la sua visita a Hiroshima, la prima di un presidente americano. Resterà un margine di ambiguità comunque, però. Così come Obama non si era scusato per le bombe atomiche sganciate sugli atolli giapponesi, anche Abe non si scuserà per quell'attacco sferrato senza dichiarare guerra. Abe deve compiacere la destra nazionalista. Vedremo come però la nuova destra americana targata Trump accoglierà la visita senza scuse. Roosevelt aveva chiamato quella infausta mattinata il giorno dell'infamia. Abe e Obama vogliono fare di tutto perché la storia chiuda questo capitolo. Speriamo che ci riescano davvero. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La crisi di governo italiana, le dimissioni di Renzi, l'approvazione della legge di stabilità tengono banco sui quotidiani internazionali, ma in realtà dietro le quinte il caso è un altro. Riguarda sempre l'Italia, ma è quello del Monte dei Paschi di Siena. Gli investitori internazionali, perplessi di quanto sta avvenendo e soprattutto dubbiosi sulla possibilità di chiudere in tempi brevi l'operazione di aumento di capitale e di vendita delle sofferenze del Monte dei Paschi di Siena, guardano con una certa preoccupazione gli eventi sulla banca italiana, soprattutto perché anche a livello psicologico molti pensano che non debba sparire nel nulla una banca che è nata prima degli Stati Uniti d'America. Il fatto che ancora non si sia trovata una soluzione all'aumento di capitale non significa però che si branco nel buio. È probabile, anzi altamente probabile, che la BCE dia più tempo a disposizione al Monte dei Paschi per poter chiudere la ricapitalizzazione che, secondo gli accordi iniziali, avrebbe dovuto essere completata entro la fine di quest'anno. Lo spostamento andrà a fine gennaio, ma questo darà il tempo sia al Paese di avere un nuovo governo e presumibilmente una maggiore stabilità, ma soprattutto darà tempo agli investitori di capire qual è lo scenario italiano. La ricapitalizzazione del Monte è tutta legata ad un'immagine di stabilità del Paese, anche per dare maggiori certezze. Ma la situazione è molto fluida in questo momento e certamente l'obiettivo di tutti, dall'Italia ma compresa l'Europa, è quella di evitare che il Monte dei Paschi diventi quella scossa che toglie all'Europa gli ultimi brandelli di stabilità che ancora ci sono. Insomma, salvare il Monte dei Paschi non è soltanto salvare una banca e i suoi clienti, ma è soprattutto dare l'immagine di un'Europa che è ancora capace di rispondere alle sue emergenze. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.